Si terrà a Parma quest'anno dal 3 al 5 settembre la seconda edizione del forum L'impresa di un'economia diversa. Quest'anno la scelta di Parma è ovviamente dettata dallo scandalo della Parmalat. L'altro anno abbiamo svolto la prima edizione a Bagnoli, proprio perché Bagnoli rappresentava la crisi di un modello industriale, di un modello di sviluppo di politica industriale che era caratterizzato dal secondo dopoguerra, quello della siderurgia. La nostra idea è quella che invece è possibile un modello di sviluppo diverso, parliamo appunto di un'economia diversa, fondata su welfare, sullo sviluppo umano, lo sviluppo sostenibile, fondata su altri consumi, altri comportamenti individuali che portino alla produzione di altri beni e altri servizi, e questo lo facciamo attraverso 3 giorni di gruppi di lavoro, di sessioni plenarie, di conferenze, di iniziative che svolgiamo a Parma, con l'idea appunto di fare una sorta di laboratorio in un'altra economia. Nello stesso tempo però vogliamo entrare nel merito di questa economia e quindi criticare quegli aspetti della globalizzazione neoliberista che ovviamente hanno ripercussioni anche sul nostro modello di sviluppo economico. Vogliamo entrare nel merito dei rapporti appunto negativi che si costituiscono tra il sistema delle imprese e quello della finanza. Vogliamo criticare i meccanismi del commercio internazionale, diciamo le ripercussioni che questi hanno sulle economie dei paesi poveri, dei paesi in via di sviluppo. E noi abbiamo messo, diciamo, al centro 3 questioni fondamentali. La prima è la questione del welfare, cioè noi riteniamo che il welfare è una questione fondamentale per lo sviluppo, per uno sviluppo economico diverso. Riteniamo che una popolazione istruita, sana, formata e che quindi, diciamo, abbia nel welfare un punto di riferimento è anche una condizione importante per uno sviluppo economico diverso, e quindi siamo contrari alle privatizzazioni, alle riduzioni del welfare, che invece per valorizzare sempre di più un ruolo della spesa pubblica positiva per un welfare al servizio di un'economia diversa. La seconda questione è quella delle tasse. Noi, diciamo, contrariamente al dibattito generale, riteniamo che vada difeso il principio della contribuzione fiscale per affermare una società coesa fondata sui diritti e la solidarietà. Riteniamo che anzi bisogna sviluppare ancora di più un meccanismo di contribuzione fiscale che colpisca soprattutto le rendite, finanziarie, le classi più ricche, che è appunto il principio di progressività sul quale si fonda il nostro sistema fiscale, quello stabilito dalla Costituzione, vada, diciamo, ulteriormente qualificato e precisato. E riteniamo che il problema non è tanto ridurre le tasse, il problema è quello, diciamo, avere migliori servizi, servizi per i cittadini sulla base di un ruolo dello Stato che sia, diciamo, quello di favorire una ridistribuzione del reddito, e da questo punto di vista le tasse sono uno strumento fondamentale. Terzo punto è quello della responsabilità di impresa, cioè quello che oggi viene definito come responsabilità sociale di impresa. Riteniamo che questo è un tema molto importante, molto delicato, che non può essere semplicemente il fatto che si faccia della beneficenza da parte delle imprese, ma questo significa un ruolo sociale e responsabile delle imprese che abbia come riferimento la questione, diciamo, del rispetto non solo delle regole e delle leggi, ma di una responsabilità dell'impresa verso la società e il territorio, e quindi dell'impiego dei suoi profitti per sviluppare qualificare la propria presenza sul territorio attraverso una serie di iniziative che ridiano alla società quello che viene preso alla società. E un convegno si chiude proprio appunto con le alternative possibili, che sono quelle che in questi anni sono state praticate, anche se in modo, diciamo, limitato: il commercio equo, la finanza etica, il terzo settore e tante altre esperienze che sono minoritarie, ma sicuramente oggi rappresentano una parte importante di economie, non solo della nostra società, ma di tante altre società. Il passo successivo dopo Parma sarà sicuramente la finanziaria, che dopo 20 giorni ci saranno ulteriori colpi di scena, dovrebbe essere pubblicata, dovrebbe essere, diciamo, prodotta dal nostro governo, che per legge entro il 30 settembre deve appunto rendere nota la finanziaria, noi usciremo dal convegno di Parma che si chiude il 5 settembre con un appello, un documento che fisserà i nostri obiettivi, le nostre proposte per una finanziaria diversa, una finanziaria di solidarietà, di giustizia e di pace.